Buonasera. Sì, buonasera a tutti, Gianfranco. Una domanda, vi sto ascoltando da tanto. Buonasera a tutti. Ma sulla strada scusi stretta, Claudio, non c'entra neanche il coso lì, l'autocarro con un cestello, nulla? L'autocarro, un deli col cestello fa retromarcia e punta la punta, praticamente la coda dentro non entra, punta la coda del cassone. La gru è quella da 15 metri, lavora benissimo, perché non è il problema di arrivare fino a sopra il tetto, che sono 9 metri, devi allungare il braccio e nel cestello andare a stringere poi bene la cravatta, tirare sul telescopico, stringere bene il telescopico, è un altro tipo di lavoro, cioè assemblare da terra, oppure assemblare a terra, prenderla con tunnel, cestello in sicurezza, infilarla dentro il master e tirare sul telescopico piano piano e stringere tutti i bulloni, è un gioco da ragazzi, ma facendolo senza cestello, credetemi che non è facile, non è affabilità, è fare il lavoro come l'ho fatto io e chi c'era con me. Abbiamo avuto mille difficoltà, non sto scherzando. E in termini di tempo, ci sta una mezz'ora, un'oretta al massimo? Con cestello, io faccio una volta che io ho già piazzato l'antenna, prendo l'antenna, la innesto, io un quarto d'ora stringo tutto e me ne sto scendendo dal cestello, ma a terra senza cestello non è così, ci siamo stati tutta la sera per montare quell'antenna, credetemi. Come mai non è stata presa in considerazione questa cosa? Non costa un patrimonio al cestello. Sì, è vero, minimo 300 euro, però fatto. La tasca non era mia, la tasca era di Natalino, quindi... Però, ti ripeto, oggi stiamo parlando, ma il lavoro è stato fatto tanti anni fa ed è sempre andato bene. Adesso si tratta che come abbiamo piazzato quella, piazziamo l'altra. Si fa un sacrificio, stando attenti, stando con un po' più di sicurezza e si piazza lo stesso. Non è un problema, assolutamente. Io sarò disponibile come sono stato disponibile la prima volta. E siccome conosco bene quel lavoro, lo farò come è stato fatto l'altro, non c'è problema. Ok, il cambio per Franco e io da questo momento mi ritiro per deliberare. Ciao a tutti, buon fine serata, cambio. Sì, capa, ciao Claudio, allora, buona serata anche a te, salutoni in casa. Saluto intanto anche Gianfranco, ben entrato. Si potrebbe anche, piuttosto che una gru, prendere anche un trapattello che costa magari molto meno, prenderlo un paio d'ore, cosa ne so, quelli in alluminio che sono leggerissimi, li piazzi in 5 minuti, si può dire. Avanti Gianfranco, con la buona sera. Poi ti rilancio Giulio per i saluti. Sì, anche quello. Il problema è essenzialmente se passano macchine, se è un vicolo chiuso, quindi non passa nessuno, e quelle cose lì. Se no poi ci vorrebbe anche, se arriva un altro gru, un cestello, eccetera, ci vorrebbero anche i vigili urbani a collocare la strada, tutto lì. Riprendi Giulio, buonasera, ben ascoltato. Ciao Gianfranco, ciao Claudio intanto, buonasera, dai, buonanotte, domani ci sentiremo di nuovo, se Dio vuole. Sì, ma certo, la strada non è che ti consente un granché, per cui, però, come stai dicendo tu, con un cestello è fattibilissimo, sarebbe una gran bella cosa, un gran bel aiuto, però purtroppo, come ha detto Claudio, la tasca non era sua, tanto meno la mia, e poi vede lui cosa vuole fare, niente di particolare. Avanti la tele per salutare Gianfranco, ciao Gianfranco intanto, dai. Natalino sta già mangiando, mi sa. Natalino ha finito di mangiare. Natalino, se non metti un tavolone dalla finestra di una facciata all'altra. E io se mi pongo un ti piazzo. Beh, cos'è? Siete lì a 6 metri, cosa sono? Due, tre elementi sono. Ma sei a 9 metri, sono tre piani. E che ti hai detto lui? Adesso sono tre invece piani. Perché l'avrei piazzato così lungo il palo secondo te? E invece una staffa tu nel secondo piano o nel terzo la puoi mettere una staffa nuova? C'è già, ci sono due staffe a pipetta. però sono lontane, non ci arrivi. Una trappa la puoi mettere in modo che ci arrivi dalla finestra, cioè a 50 centimetri. Io ci attacco una trappa di ferro, di quelle palo palo, e lo blocco con quella. Non ti preoccupare, che già lo so il fatto mio. Perché se tu la vuoi avvicinare per mantenere, diciamo, l'asse, cosa fai? Fai una specie di S e ti avvicini alla finestra, diciamo, da giù, ti fa una specie di S per spostarti il palo verso la finestra e poi ti metti una tappa nuova vicina in modo che te la puoi gestire come vuoi. È fattibilissimo tutto. Perché io metto quelle tappe palo palo, dalla pipetta al palo, e non si muove più. Allora, bisogna fare la cosa più semplice, in modo che poi la puoi sempre smontare. Deve essere una cosa accessibile, no? Che ti devi sbracciare un metro e mezzo fuori con il rischio di cadere giù. Devi cercare di avvicinarti il più possibile alla finestra. Avanti, Giulio. Ok. Allora a quel punto lì basterebbero due allunghi a tipo bandiera con quei cosi che vengono per il ponticchio per fissare il tubo fissato alla staffa che c'è adesso già a muro, attacchi lì e ti metti un allungo per avvicinarti alla finestra. Praticamente è un lavoro tipo come fanno per i ponteggi, no? Quando si collegano i tubi eccetera, li vendono quelle gaffe lì, stringi quello, ti avvicini i tubi vicino alla finestra, quindi si può lavorare più tranquillamente, non c'è problema. Cioè, insomma, diciamo che le soluzioni già si trovano, basta solamente fare una preparazione adeguata per poter lavorare con meno difficoltà possibile, tutto lì. Avanti, Gianfra. Comunque anche il trabassello non è fattibile sull'altezza 9 metri, perché io l'ho visto piazzare praticamente ci sono stati parecchie ore, era quello in alluminio, proprio in alluminio, però sono molto leggeri, però la ditta che è venuta c'è stato parecchio per piazzare, mentre col cestello arriva in retromarcia, magari tira su e quello va anche parecchio in alto, e forse se arriva anche a 7-8 metri, dipende dal modello. Ma mi sa che lì è un vicolo, è un po' strettino, no? Se non ricordo male, non è che ci lavori bene lì, se non ricordo male. No, ma c'è stato un errore, non è 9 metri, è due piani, 9 metri sarebbe il tubo, ma non è che deve arrivare in cima al tubo, deve arrivare al secondo piano, considerando che il primo piano massimo sono 3 metri, che non sono nemmeno 3 metri, il secondo sono piano. 3 piani, tra Lagaro Gantano, ha compreso un cazzo. 9 metri, sono due piani, o Gianfranco e anche Franco. Per cui l'altezza è quella, la seconda finestra è a 6 metri massimo, forse non ci sono nemmeno 6 metri, forse saranno anche di meno, un pochino di meno. Però non è che deve arrivare in cima al palo, cosa ci fai insieme al palo? È il palo che deve essere 9 metri, ma non da terra alla seconda finestra, assolutamente. Vai Gianfra. Sì, ma mi ricordo che Natalino ha detto che più passo. Quanto è Natalino esattamente? 6 metri o no? Sono 3 piani. Quindi facendo anche 2,50 adesso, circa 7,50 da una cosa all'altra, 8 metri dovrebbe essere, dai. E questa benedetta staffa è 8 metri. Ma 3 piani, che cosa intendi? Sopra il tuo inquilino, cioè sopra la persona che sei sulla tua casa, c'è ancora un'altra finestra da lì, no? Non c'è nessun altro. No, quello del terzo piano è disabitato, però al secondo piano ci abita una persona e si fa dal secondo piano, non c'è problema. Appunto, devi arrivare a quell'altezza, poi per il resto è il tubo che spunta su, no? Quella è l'antenna che spunta insieme al tubo che spunta oltre quel secondo piano, dunque tu devi calcolare che lavori al massimo all'altezza di 6 metri, non di 9 metri, tutto lì è il palo che diventa 9 metri più l'antenna magari, ma niente di più. Vabbè, dai, avanti Franco. Sì, più o meno è così, perché lui parte da, non parte da terra, ma parte già da 2 o 3 metri d'altezza. Deve passare 2 piani, quindi altri 2, e sono 3, 3, 6, poi la deve far sporgere 3 metri l'antenna dal tetto, quindi altri 3 metri, sono 3, 6, 9 metri, 9 metri di palo più l'antenna. Scusa Natalia, una domanda, ma quando a qualcuno gli si guasta l'antenna TV o comunque deve fare dei lavori, come salgono? Non c'è una bottola, non c'è un tetto accessibile anche se spiovente, come fanno? Sì che c'è, ma è disabitato il terzo piano, ci abitava una signora che se n'è andata. Però se tu sali sul tetto e rompi qualcosa ti fanno pagare tutto il tetto, tutto marcio quel tetto, perché io non l'ho potuto piazzare sul tetto l'antenna, perché non ci sono salito, non mi sono fidata a salirci, o se si va da giù su, da chi di un secondo piano. Ti vado in peggio, ho capito, come non detto. Meglio una testa, se si va ci apri il portone e entriamo noi. Se avessi avuto il il cestello sul tetto me l'avrei piazzata l'antenna senza stare lì a rompermi le scatole. È che non entra manco il furgone con la scala lì col cestello. No, ci devi arrivare direttamente da fuori, da sopra praticamente, devi andarci dall'alto, mi devi scendere. Chiamiamo l'elicottero dei vigili del fuoco. Peccato, se ne andate in pensione mio cugino, se no l'avrei fatto. Natali, a te ti conviene comprarti il piano di su, che tanto costerà poche lire, poche euro quando appartamento di su, soprattutto se è disabitato. Ecco, io almeno non avrei problemi. E sai, quando ti pare ti piace, fai così. No, chiami 2 zingari, te lo occupano subito. Ah no. Oh, yeah. Ehi vabbè, comunque tutte le idee sono buone, per cui adesso si tratta solo di fare questo lavoro, niente di più. Vai Giofra. Sì, ok, riprendo, faccio salutarvi, saluto anche a Claudio che sarà già a cena, dato che sono già le 8:10, anch'io scappo via, era solo giusto per avere un quadro complessivo della situazione, perché questo lungo discorso che avevate mi ha molto incuriosito, ma diciamo che quel posto pare che ci abbia tutte le pecche proprio per rendere difficoltosa questa cosa, anche il tetto pericolante ci voleva. Va bene, riprendi Franco, saluti a tutti, ciao Giulio, ciao Natalino, e ciao anche a Claudio se è ancora in ascolto. Buona serata a tutti. Riprendi Franco, io ho cuore di esecutivo. Non so se ti è scappata la portante, dai, buona serata anche a te, allora, grazie per il tuo intervento. Una buona serata, te la auguro e un abbraccio da parte mia. Avanti Giulio. Ok, ciao Giofra, alle prossime, dai. Potevi partecipare anche tu prima, così avremmo cambiato qualche idea ancora più allargando il discorso. Comunque va bene così, non c'è problema. Ciao di nuovo Gianfranco, buona cena e buonanotte, alle prossime. Avanti Natalino, saluti a Gianfranco. Ciao Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, buon proseguo, buona cena. Non sai che mi stanno parlando in verticale? Ok, riprendo io allora, dai. Natali, comunque, quel problema che si verificava non ti hanno detto più niente, evidentemente quelli se l'hanno sistemata l'impianto che dovevano fare, o che tu avevi proposto che gli avresti fatto a tue spese anche tra l'altro. Se non ti hanno detto più niente vuol dire che hanno chiamato il tecnico e l'hanno fatto sistemare il problema antenna. Sì, facciano quello che vogliono, cosa vuoi ti dire? A me mi hanno detto di parlare, se poi hanno problemi si rivolgano a chi di davvero, così si pagano i burro a muso. Beh, certo così. No, ma se non sono più venuti a dirti niente, vuol dire che hanno sistemato la situazione, dai. Perché in definitiva la colpa era sempre da quell'antenna ricevente che sicuramente era tutta pratica, per cui non c'era da meravigliarsi che ci fosse l'interferenza. Franco, puoi riprendere? sì, sì, sembra proprio una gara a ostacoli questo. Beh, vabbè, dai. Comunque, piano piano ci riuscirà a sistemare la situazione di Natalino, dai. Sono messo peggio io qua. Diciamo che in linea di massima anche tu hai né più né meno la stessa situazione, però avendo fatto un lavoro con la sua antenna così leggerissima dove è attaccata, l'hai potuto fare tranquillamente da solo e ci sei riuscito alla grande, per cui è vero che già da qualche annetto stai modulando tranquillamente, non senza nessun problema fra. Sì, io questa ce l'ho diciamo a 50-60 centimetri dalla sinistra, diciamo, affacciata alla finestra, con una mano la sollevo e la porto dentro casa praticamente, perché anche avanti ieri mi sembra che se ne è di nuovo sceso un elemento, l'ho tirato di nuovo su, ne ho messo un altro po' di nastro e l'ho rimessa. L'unica cosa è che devo staccare, diciamo, i cavetti, io non sono a PL, sono a bulloncini, devo staccare quei due dadini da 10 che sono in acciaio, quindi li tolgo subito e poi la rimetto su, è arrivata più bulloncini, un paio di minuti. Certo, così è così, vabbè, comunque va bene lo stesso, non c'è problema. Purtroppo la situazione di Natalino è un po' complicata, lo capiamo, questo non ci sono dubbi, però con la santa pazienza e con l'aiuto di qualche persona il lavoro si può fare tranquillamente, non c'è problema. Va bene Natalino, dai, risolvi al più presto possibile, speriamo che il tempo sia buono quando decidi di fare questo lavoro, così almeno risolvi una volta per tutte questa situazione. Vai Natalino. Cappa, andrà bene Meda. Vabbè dai, io vi lascio che devo fare QRT perché qua c'è da fare. Ci sentiamo alle prossime, da. Salutoni a tutti. Ok, ciao Natali, ciao, buonanotte, saluti in casa, ci sentiamo. Non dico buona cena perché hai già cenato, per cui ti dico buon appetito. Vai Franco. Cappa, ciao Natalino, allora. Pensaci, stanotte rimugina, vedi un po' di trovare la soluzione migliore, poi già si farà. Se sono libero volentieri, guarda, mi fai sapere se sono libero, se non sono in turno, una mano la posso dare. Non a salire in altezza perché un po' soffro, però da giù si può fare qualcosa. O magari a fianco, aiutati con un braccio, se ci arrivo. Quindi stammi bene, buon tutto, salutoni in casa e così, dai, avanti Giulio. Certo. Sì, come stavo dicendo, per lavorare ancora meglio, la soluzione migliore sarebbe, però la difficoltà è sempre la strappa di su, perché finché è giù, mi prendo la scala, ti metti un manicotto, ti metti un pezzo di palo o trasversale già preparato col collare, eccetera, e poi avvicinare la finestra in modo da poterci arrivare tranquillamente. Il problema sarebbe l'aggancio di su, anche lì ci sarebbe da fare lo stesso lavoro con due pezzi di tubo orizzontali, uno nella strappa di giù e uno nella strappa su, così a quel punto lì addirittura quasi da solo si può fare un lavoro del genere, però così bisogna pensare di avvicinare alla finestra per poter lavorare in santa tranquillità e soprattutto senza nessuna difficoltà. Sì, infatti la prima cosa aver fatto, perché su stampa a quanto pare non ce n'è, si sono attaccati a un qualcosa che c'era già esistente, una vecchia stampa, quindi quella io l'avrei proprio, una volta che togli l'antenna vecchia, il tubo vecchio, l'avrei abbandonata, ne avrei messo una più vicino alla finestra, avrei fatto un calcolo, diciamo, quanto vuole poi la prolunga per spostarti di asse, di 50 centimetri, fai una specie di H che in una innesta sotto nella parabola e nell'altra fai partire poi il tubo master, come può genetare, che coincida poi con la stampa che ci hai messo tu nuova, e il gioco è fatto, poi da lì fai quello che vuoi. Dai, comunque qua mi chiamano e ti saluto, grazie per la chiacchierata, mi sa che c'era anche Gianni con noi, l'abbiamo un po' dimenticato, vabbè, ci scuseremo alle prossime, dai, un abbraccio ancora, buona serata, buona carica, buon tutto, riprendi Giulio. Ok, ciao qua. saluto i ricambiati, naturalmente ci sentiamo le prossime, dai. No, Gianni aveva deciso lui di staccare perché stava facendo un'altra cosa, poi non è rientrato, evidentemente non ha voluto o non ha potuto, non lo so. Vabbè, ciao Franco, buona cena, buonanotte, ci sentiamo, ciao, alle prossime. Grazie ancora per il ricordo, sempre un piacere, dai. Vi cambiate tutto al 100% anche da parte mia. Ciao, ciao, Fra. Grazie ancora, ciao. Ciao, ciao, ciao. C'è qualcuno su 10? Robe, abbiamo appena chiuso. Ciao, Robe. Abbiamo appena chiuso. Eravamo più di 2 ore qua discutendo, per cui abbiamo fatto un bel QSO. Ah, ok, vabbè. Ma non ce n'è oltre a te, c'è qualcun altro? Non so se c'è rimasto qualcuno all'ascolto. Ma abbiamo appena chiuso 2 minuti fa. C'ero io, Franco, Natalino, Gianfranco, anche c'è, ha avuto anche lui un piccolo intervento, ha fatto in questa frequenza, e poi c'era anche Claudio, abbiamo parlato per 2 ore, per cui va bene così, adesso avevamo chiuso tutti per la solita cosa, e cioè la cena, niente di più. No, vabbè, io ho già mangiato una cosa veloce, dai, rimango qua in Corrix, tu devi andare a cenare, naturalmente, normalmente tu vai verso le 8 così. Sì, non mi hanno ancora chiamato, però è solo questione di qualche minuto, niente di più, per cui sono in attesa della chiamata, ma sono già le 8, per cui qua si tratta veramente di qualche minuto. Sì, ok, quando devi andare avvisa, così non ti trattengo. Ok. Certo che sì, vabbè, stavamo discutendo e trovando un po' la soluzione per come installare l'antenna di Natalino, abbiamo discusso a lungo, ognuno ha dato la sua idea, la sua impressione, per cui, ma poi alla fine stavamo dicendo tutti la stessa cosa. È importante trovare il sistema più facile, più sbrigativo, dai, e più affidabile, naturalmente. Certo che sì, siamo tutte persone adulte, tutte persone che hanno un cervello come pensare, non c'è problema, cioè non ci sfugge, in poche parole, Natalino, se ci sia l'ascolto, non ci sfugge, guarda, tu l'antenna la piacerai, non ci sono dubbi, però bene sono andato, Robe. Giù, secondino, che sono al telefono, scusami un attimo. Ok, d'accordo. Ci sei ancora giù? Sì, Robe, ci sono ancora, sì, ancora non mi hanno chiamato. Scusa, mia figlia mi chiama sempre quando è furbo. Certo che sì, capita. Se non chiamo il padre che deve chiamare, chiaro grido, anche per sentirti, no? È ovvio, è normale. Sì, è meglio che siano sempre vicini i figli, che si preoccupino loro e che mi preoccupino soprattutto io. Io già mi preoccupo sicuramente, non manca, perché poi ci sono genitori un po' menefreghisti, figli menefreghisti, ma bisogna stare sempre attenti, poi naturalmente la massima fiducia reciproca. E poi se c'è qualcosa che non va, subito avvisare. Certo che sì, se non si ha un rapporto così con i familiari, con chi ci deve avere un rapporto buono, ci mancherebbe altro, e vuole vedere, capita, sarebbe, non apparteniamo a certe categorie di famiglie, noi siamo tutt'altra gente, non ci sono dubbi, non c'è bisogno nemmeno di spiegarmi, proprio già lo capisco perfettamente, so che sì, per cui no, tu sai che sono io, per cui non c'è problema. Ok, vecchio stampo, come si diceva una volta. Vediamo se c'è qualcuno nel frattempo su 10, sono riprenditore, avanti chi vuole entrare? Nulla. A te. Adesso domenica c'è una bella partita, c'è Milan-Napoli. Ancora il campionato è apertissimo, però io ho una sensazione che l'Inter abbia qualcosina un pochino più degli altri, salvo naturalmente rallentamenti e salvo anche incidenti magari di qualche giocatore importante, per cui però diciamo che sono 3 squadre che sono in lizza, anzi addirittura io dico 4, perché anche l'Atalanta io la metterei fra le favorite, magari con una percentuale più bassa rispetto alle altre, però anche l'Atalanta non mi sembra una squadra che può anche competere per poter vincere il campionato. Sì, no, l'ha dimostrato nelle partite, negli scontri diretti ha fatto bella figura, anche se io sono simpatizzante per il Milan, però come hai detto tu l'Inter c'ha qualcosina in più, soprattutto c'ha continuità e c'ha una rosa completa, cioè i ricambi sono all'altezza di quelli che sono in campo, al contrario di altre squadre, perché il Milan è una squadra molto entusiasmo, tanti giovani, con Ibrahimovic che li fa da chioccia. Il problema è che i rincalzi non è che siano proprio all'altezza di quelli titolari, ma non gli mancano un paio di giocatori, il Milan è un po' in difficoltà, gioca con l'entusiasmo, con la grinta, eccetera eccetera, però quando ti incontri squadre forti, insomma, quando ci saranno gli scontri diretti Milan-Inter, vediamo un pochettino di che passa fatta al Milan, oppure Milan-Juve, Inter-Juve, eccetera eccetera, vediamo un pochettino. È già da domenica, è solo che non so se gioca alle 9:15, non ho guardato, o alle sì, anche la gioca al Milan, non lo so, ma suppongo che quando ci siano queste partite così importanti giochino sempre la notte, sempre alle 9:15, suppongo che sia così, non sono sicuro, però credo che sia quell'ora. Sì, diciamo che, ripeto, Milan è lo stesso, una squadra molto ben attrezzata, molto forte, però di tanto in tanto qualche lacuna la manifesta, mentre invece l'Inter mi sembra più diciamo più continua, ecco, e poi ha una dirigenza l'Inter che non è indifferente rispetto, premesso che anche il Milan ha dei buoni dirigenti, però non è certamente come quelli dell'Inter, io penso così, ma comunque saremo a vedere. Qui sono lontano, sono io, molto lontano, a 8 punti in classifica, in questo momento mi sembra che sono ottavo, perché ti puoi immaginare, dico io per dire la Juventus, sono già mi hai capito, ma niente di eccezionale, la Juve quest'anno è proprio terra a terra. Comunque gioca alle 20:45 gioca Milan-Napoli, e pensavo ci fosse Juve-Cagliari, invece no, c'è Cagliari-Udinese questa settimana e gioca sabato alle 20:45, la Juve gioca col Bologna alle 18, chissà ma cosa, la Juve sta sempre giocando alle 18, non ho ancora capito per quale motivo. Ma questo non lo so nemmeno io, evidentemente hanno fatto un calendario anche l'UEFA quest'anno, e anche la FIFA stanno facendo degli errori madornali. Hai visto il pasticcio che hanno fatto nel consorzio per continuare la Champions, ma che vergogna. Ma poi si lamentano e hanno il coraggio di dire no, niente Superlega, ma se fate pena fate. E certi presidenti, come quelli del Barcellona, come quelli del Real Madrid e anche come quello della Juve, chiaramente hanno delle idee molto chiare, però non glielo permettono di fare la Superlega. Ma sono dei dirigenti quelli della federazione, vergognosamente schifosi, guarda. Allora, io sono sempre stato favorevole alla Superlega, prima di tutto per lo spettacolo, e tanto sono sempre quelle le squadre, sono una decina le squadre che contano, è inutile che tu giochi con l'Azerbaigian o squadre strane di chissà dove, Tel Aviv, squadre così, sono una decina le squadre, 10, fanno mettere anche di più, dai, fanno 12 di squadre, sono sempre quelle lì che vanno avanti, raramente che si fermano prima, come esiste nel basket, esiste l'Eurolega, nel football americano e tutti gli sport americani dove c'è spettacolo, sono tutta la cosa che fa ridere, che hanno fatto i filosofi per i soldi, per quello, ti sei venduto a Qatar per i soldi, la FIFA ti sta facendo un torneo a novembre, il campionato del mondo che non si è mai visto da nessuna parte, giocare solo per i soldi, e ti lamenti perché Barcellona, Inter, Milan, Juve, Real Madrid e tutte quelle squadre inglesi vogliono fare un campionato a 60 e gestirsi di loro i soldi, perché la cosa brutta che i soldi di tutte queste sponsorizzazioni dei diritti TV alle società gliene danno una minima parte, chi se li mangia sono la FIFA, in questo caso la UEFA. E infatti è quello che stavo per dirti anch'io, perché invece perché non cercano di dargli più un contributo più importante a queste squadre, invece no, la federazione si mangia tutto, ma non è possibile, guarda, non è assolutamente possibile. Poi adesso si è aggiunto anche questo problema della pandemia, per cui sappiamo benissimo che gli incassi non sono più come quelli di una volta e chissà per quanto tempo dura ancora. Purtroppo è così, la federazione è un coso, un fare in mano, e tutto loro si mangiano. Se tu dai per dire, non so, a una società che ha un certo numero di incassi e ti dà un sacco di soldi per l'iscrizione, per tutti i diritti del campionato, eccetera, eccetera, e poi tu gli dai una elemosina, non va bene così. Tu non devi pensare di prenderti soldi per magari stare bene voi dirigenti della federazione. È la squadra che bisogna mantenere, lo spettacolo, perché io la penso anch'io così. Dovrebbero essere aiutati, ma perlomeno lasciagli fare questo campionato a sé, in modo che possano avere un introito superiore, perché oggi come oggi la squadra è troppo costosa da tenere, per cui hanno bisogno di un maggiore introito monetario. Assolutamente d'accordo, ma non parliamo, noi stiamo parlando della UEFA, tu considera la FIGC, ma tu lo sai quanto costa fare un campionato? Il campionato più scaccino della FIGC, la terza categoria, di base costa circa 1200 euro, lo sai quante squadre ci sono in terza categoria in Italia? Ce ne sono migliaia, se fai la seconda categoria ti costa il doppio, se fai la prima categoria quasi il triplo, la salire sino alla cosa, e sono soldi tutti puliti che si prendono loro, perché a parte le spese arbitrali che all'arbitro li danno di media dai 35 ai 40 euro più la trasferta varia a chilometro, ma li dà nelle tre righe, perché gli arbitri adesso c'è il discorso che non ce ne sono più di arbitri, adesso magari i chilometri ne fanno di più, però fino a tempo fa che ce n'erano molti di più di arbitri, prendono una marea di soldi questi dalla FIGC senza considerare i professionisti, perché un'iscrizione di un campionato di serie C o di B e di A non ne parliamo cosa può costare, questi sono soldi tutti puliti, più ci sono i diritti televisivi che li gestisce la cosa, lo sai quanto ha pagato DAZN per i diritti televisivi? 800 milioni di euro, lo sai, sono 800 milioni di euro, ha crepato tutta la cosa, e sono anni che stanno prendendo soldi, più ci sono le sponsorizzazioni per dire dalla team, c'è Serie A team, più c'è la sponsorizzazione della Coppa Italia, e sono tutti di là, non si è mai capito questi soldi a cosa servono. E cosa servono? Loro dicono che servono per mantenere anche gli altri sport, perché in pratica il calcio è quella che mantiene tutte le altre sport, gli altri sport anche, e loro si giustificano in questo modo, però non è così che deve funzionare, assolutamente no, perché tu a me non mi puoi far pagare un miliardo per l'iscrizione per dire un campionato di Serie A, capita, e quando puoi a me come rientro mi dai 100 milioni per dire, no? E no, non va bene, 100 milioni significa vincere una coppa dei campioni per dire, che più o meno è quella il premio che hanno, 100-120 milioni, non di più, ma deve arrivare fino in fondo, deve vincere, perché se no non va bene. E oggi come oggi con quello che costano i giocatori e con gli stipendi che pretendono, giustamente anche loro hanno il diritto di chiedere il più possibile, anche se io avrei messo un tetto, anche in quello avrei messo un tetto, un limite massimo di ingaggio e basta, tu di più non puoi avere, perché non è giusto che si possa dare tutti questi soldi a certa gente. Prendiamo ad esempio questo morto di Dybala, vuole 15 milioni, quando non ne vale nemmeno 3-4 non ne vale, perché con la resa che ha, poi è fragilino, sempre infortunato, ma va e ci vede la mezzo. Io l'avrei venduto, la Juve fa male se non lo vende, oggi come oggi che ha un po' di mercato. Comunque io la penso in questo modo. Non lo so, ma quello che hai detto tu del calcio non è vero neanche, che tiene con chi tiene l'isporto è il CONI, e il CONI prendeva tutti i soldi dal Totocalcio quando il Totocalcio andava in corso, e non forse in minima parte, perché tutte le attività sportive, dall'atletica al pugilato a qualcosa, devi pagare la federazione per fare un incontro, per fare una gara, rugby, qualunque cosa, e sono un sacco di soldi le iscrizioni. La cosa vergognosa è i campionati dei dilettanti, cioè fanno pagare le cifre assurde, e ci sono solo spese per le società, e questo io non capisco cosa ne fanno di questi soldi. Tu vai a fare un'iscrizione, te lo dico perché io lo so e ci sono in mezzo, già lo sai pure tu, delle cifre assurde, anticipo coso, poi per dire, io l'anno scorso ho tesserato 30 giocatori, l'anno successivo loro ti fanno pagare 30 giocatori anche se ne hai 5 tu da tesserare, come quelli dell'anno scorso, anticipo coso, poi ti fanno un conto corrente, ti aprono loro all'interno della federazione, che tu per dire hai pagato in più quest'anno e te lo tengono come fondo, se tu l'anno dopo non ti iscrivi è imbecile di là. Lo sai quante società falliscono che non si iscrivono, e tutti quei soldi eventuali che hanno pagato in più sono persi. stessi. Ed è una cosa, allora, la FGC, io non so perché non entri in mano la finanza o perché stanno facendo un sacco di studi con le società, quello lo fanno per sopravvivere, anche se poi c'è la mafia anche di lì. Ma io dico, se entrano all'interno della FGC succedono macelli grossi. Ma FGC parliamo a livello razionale, non a livello provinciale, che sono tutti volontari e non percepiscono neanche una lira. Parliamo a livello nazionale, ci sono delle cose, chissà come fanno a finire i soldi. Ma cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è così. Cos'è che paga di iscrizione, ad esempio, al campionato tutti gli anni pagate l'iscrizione voi? Cos'è che pagate dalla vostra categoria, ad esempio? Che è una categoria che sarebbe dovuta a essere iscritta senza pagare un centesimo, invece vi fanno pagare dei soldi. No, è vergognoso veramente, guarda. Dai, io ascolto il passaggio e poi chiudo perché mi hanno chiamato per la cena. Vabbè, avanti, rispondimi. Allora, il campionato di terza categoria, che è il livello più basso, costa circa 1200 euro. Naturalmente bisogna considerare anche il numero di tesserati che c'hai, perché le assicurazioni sono a parte. Di media un'assicurazione costa quasi 50 euro a calciatore. Più c'è tassa di affiliazione, ogni anno la devi fare, anche se sei iscritto da 100 anni devi fare ogni anno. Poi anticipo, spese varie, loro considerano arbitraggio e cose del genere. Anche se fai 10 partite, loro ti rimangono magari 30 di partite. C'è sempre una tariffa più o meno fissa che fanno di lì. È tutto, guarda, è una cosa, se tu vedi le cose, la voce di spesa dite, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un campionato dilettante, il più scaccino che esiste, che ti mandano ragazzini, arbitri che sono alle prime armi, per cui anche l'arbitro è scarso rapportato al corso, è una vergogna. Vabbè, ti lascio andare Giulio, se no poi vari ci scappa il morto. Ciao Giulio, buona cena, buon tutto. Ciao Robe, grazie per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Sì, dai, intanto rimango qua, tanto ho già mangiato, se c'è qualcuno faccio chiamata generale, se vuole entrare qualcuno se no vado da altre parti. Avanti su 10, chi c'è? Tutti in posizione di mangio. Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Io. Chi sei? Io. Roger, tu sei? Sì, buonasera. E beh, c'è, che cosa sei combinato? Finito a lavorare? Sì, ho finito a lavorare. Stavo ascoltando a voi, parlando di calcio, e allora sono andato di no, io ho già mangiato presto, c'avevo un po' di langolino, ho detto che mi mangio qualcosa veloce che ti dia energia. E allora vabbè. Che si dice? Ma devi entrare stanotte o per oggi hai finito? No, ragazzi, per oggi ho finito. Oggi ho finito, devo essere a riposo, invece mi hanno chiamato dopo pranzo e sono dovuto scendere. Problemi ci sono stati? No, nessun problema. Tutto risolvibile. Che anche oggi il mare era spettacolare, no? Oggi. Tutta la settimana ha dato buonaccia. Io ho visto un'immagine a Platamona, la torretta sembrava un lago, una cosa bellissima, colori poi belli, perché c'era la giornata soleggiata, il mare limpido, pulito, guarda, raramente lo vedi il mare così pulito. È normale, quando così prende il colore del cielo, del fondale, e si mischia, fa quella cosa bella, quell'effetto bello. Allora Robè, cosa mi racconti? E è mai uscito il suo incampere oggi? No, stavo lavorando. Ah no, pensavo a qualche weekend, però no, amico mio è uscito sabato, lui ne ha uno bellissimo a due posti, ma l'ha comprato nuovo lui, bello, ma proprio spettacolare, bellissimo, sono lui, marito e moglie e basta, sono andati sabato verso la zona di Cagliari, veramente non è paragonabile al tuo, il suo ci sta dentro al tuo, per dire come, però è bello perché è piccolino, di quelli furgonati, quelli nuova generazione, veramente è bello. Ah, è furgonato, sì, sono belli, che a me non è il mio... Non è la mia aspirazione il furgonato, perché è troppo piccolo, a me non mi piace. Mi piacciono gli spazi un po' più grandi, troppo stretto è il furgonato, a mio avviso. Naturalmente dipende tutto dall'utilizzo, io invece sono favorevole piccolo il camper, perché a me mi piace di vincolarmi, andare in posti vari che con quello gigante non ci fa niente, col tuo sei limitato, bello perché c'hai tutto, per una camera da letto più mannaggia mai di quelle che c'hai in casa, bellissimo, tutto spettacolare, però quella è una cosa molto ma molto ingombrante, per cui già come devi parcheggiare, se ti devi, ma tu mi dici mi porto la moto appresso e scendo con la moto, però se deve andare a qualche posto magari un po', non dico frequentato, tu magari vai in zone dove c'è il camping e cose del genere, o piazzale grandi, e invece a me mi piace spostarmi nelle calette, in posti così un po' nascosti, dai. Io di solito parlo di campeggi, nelle aree sosta, sono più tranquillo. Ci metto la moto dentro, la porto fuori e me ne vado in giro. Ma tu ce l'hai una moto piccola? Allora, io ho il Vespone 125, capito? C'è il Vespone 125 dell'83, il Pix arcobaleno. E te lo porti dentro il camper? Stavo valutando l'ipotesi di mettere il gancio a freno con un carrello e portarmi dietro Harley, ma tu sai che sta uscendo a colpi, chi è avanti? E perché sta uscendo così male, Carlo? E sei basso però per essere in piazza alle 16, sei 9:20 e sei basso di radio. Aspetta, se Eugenio ti ha ascoltato, Eugenio l'ha ascoltato? No, per niente, vero, io a Carlo è una vita che non lo sento. Come detto, ci mette in piazza Valentina. L'hai ascoltato, Carlo, Eugenio? Va bene, sono contento. Eugenio, tu aspetta qualche giorno cosa ne esce dalla stazione di Carlo, diventerà il numero uno a Sassari. Già lui arriva a casa mia, arriva a 9:50, con Ipi che arriva a 9:60 con l'antenna al dipolo verticale. A Muroso arriva più forte di me. E da Claudio arriva più o meno allo stesso livello mio, che lui a Claudio è verso Usilo, e sta uscendo con l'antenna un dipolo. Si sta prendendo quella Ceati, ce l'ha ritirata oggi quella di Claudio, la J-Pol, e senta cosa ne esce da quella postazione lì, direi il più forte di tutti. Voglio vedere, io non riesco mai a sentire questo Carlo. Guarda, mi sono spaventato ieri, è arrivato 9:55, quasi 9:60, il segnale è che c'aveva Claudio quando era qua vicino, e il segnale di Pompugno quando attacca, sto dicendo, e c'ha un antennino con 5 watt, è zeta quando attacca quella, perché lui è molto molto in alto, è vicino al bullying, non ho capito esattamente, però è tutto aperto, lui vede tutto, Porto Torres, la costa, e a vedere magari per Alghero se è favorevole, per dire come posso essere favorevole io, però lui a Muros è arrivato più forte di me, 5 punti, 9 più 30 è arrivato. Ho capito, ma siete tutti lì, e ormai ti arrivi a fondo scale, è vicino a casa tua, il bullying è più sul calasatù di casa tua, non è che siete distanti. Ma Muros non è vicino, no? Muros, io e Claudio siamo quelli più forti, e Claudio numero uno, io numero due, e lui è arrivato ieri più forte di me, per dirti. La posizione, ma è normale che ti arrivi a fondo scala, è sopra casa tua. Sì, ma ti ripeto, c'ha un'antenina che non vale niente, Pompugno che c'ha la Mantova ed è in vicinanza, forse anche più vicino di lui, non mi arriva così forte. La gente è andobbiata, c'è antenna che gli ho consegnato oggi, buonasera a tutti. Ciao, Cla. È quello che ho detto, diventerà il più forte di tutti a Sassari, perché arriva già a bomba così, figurati, voglio vedere ad Alghero, Marico, come va lui ad Alghero? Guarda, te l'ho già detto in verticale, te lo ripeto, qua, a 4 km dall'Overo prima, ok? Mentre tu eri il più forte di tutti, poi c'era Antonello, il più forte assolutamente, cioè Claudio, vabbè non lo conto, Claudio 9:40. Lui a te ti passa, non sono stato mai attento, arriva 9:35, tu sei 9:30, qua dove sono io. Ok, quindi 9:35 lui, 9:40 Claudio, 9:35 tu. 9:35 Carlo, 9:30 tu e 9:30 Antonello, avete lo stesso segnale. Però il fatto che lui arrivi da Claudio a Muros 9:30, 9:35, cosa che io sono oltre 9:40, ok, è una cosa molto molto indiscutibile, perché lui adesso, glielo consegnato oggi l'antenna, lui penso che questa settimana o la prossima monti l'antenna nuova, la Smartec, sfascia il culo a tutti, anche dentro Sassari vi ammazza tutti, e anche fuori Sassari vi ammazza tutti, a tutti completamente. Sì, l'ho detto, lui il Porto Torres poi lo vede pulito, tranquillo. L'unico dubbio, voglio vedere dove va verso Porto, verso Alghero, e basta. Però la zona Sassari e tutte le limitrofe ammazza tutti, non ce n'è per nessuno. Arriva già forte così, figura, anche se siamo vicini. Però la controprova è stata Muros. Cacchio, Muros, io sono più vicino di lui, sono più in alto di lui, eppure cacchio, lui è aperto. Veramente c'ha qualche vato. Avanti l'amico carissimo di Porto Torres. Voglio vedere quando sulla piazza è Sant'Enna. Capita che sento Carlo, non ci ho mai parlato, non sono riuscito a parlare, forse qualche volta così sfuggita, che forse stavamo guardando dalla macchina, è possibile. Oggi gli ero consegnata l'antenna alle 4, oggi alle ore 16 gli ho consegnato la Smart Tech a Carlo, quindi penso che se ce la fa questa settimana, perché io vabbè sabato sono impegnato con Roberto, ma la prossima settimana penso che lo senti molto ma molto bene. Io stamattina ce l'aveva giocare con me con Alghero o Roberto, io stamattina a Carlo di Alghero che ero la barriera e sono arrivato 9 più 10 con questa radio, questo è il 140 con 20 watt e 30 di picco, 9 più 10, immaginate tu si attacco il 430 con l'amplificatore. Sì, già lo so, noi verso Alghero siamo aperti, io, tu e Antonello, soprattutto tu sei in ottimissima posizione, infatti l'unica verifica da fare è se lui ad Alghero risulta aperto, e per tutto il resto ci schiaccia, cioè molto molto più forte. Comunque Carlo c'era adesso in macchina per Talessini, vediamo se c'è ancora. Carlo, ci sei? Dove sei Carlo? Dov'è Carlo? Con un portatilino con l'antenino in gomma per Talessini, qua mi arriva quasi 9.30, però la radio è bassa, non ce l'hai in macchina la radio Carlo? Ah ok, ok, come non detto. Allora tu sicuramente a me mi ascolti fortissimo, se sei aperta le segni si vedono le antenne. A me mi ascolti Carlo? No, ti sento anch'io più basso di Roberto, ma fatto, ma dove sei che non capivo. Avanti genio, dai 2 minuti e poi vi lascio per andare a pappare, ok? Vai genio. Chihuahua, l'hai chiamato genio, dovevi chiamare Eugenio. No, io lo chiamo genio, noto Chihuahua. Eugenios. Sì. Io riprendi Chihuahua. Chihuahua, stavo aiutando mia moglie a fare gli agrumi universitari. Sì, va bene, dai, aspetteremo Carlo che si piazza l'antenna, così riusciremo a scambiare 4 chiacchiere. Ma con l'antenna da casa sua non lo sentivi Eugenio, Carlo? Sì, forse l'unica volta che sono riuscito a sentirlo, perché poi magari gli orari non hanno coinciso, capito? Quindi non sono più riuscito, e tutte le volte che l'ho sentito, cioè l'ho sentito. Sentivo voi che parlavate con lui perché era in macchina, aveva il suo portatile in garage o al quadrato. Perché a casa sua dovrebbe arrivare bene al portatore, se lui ce l'ha di fronte e vede tutto. Sì, a casa lo sento, perché non c'è mai a casa, ma perlomeno non coincidono con gli orari, capito? Ok, facciamo un attimo in bianco, se qualcuno vuole entrare nel frattempo, avanti chi vuole entrare, se no riprendi tu Carlo se ci sei ancora. Fai Carlo. Ok, ciao, ti saluto anche da parte di Eugenio, Claudio non so se ci sei ancora. Comunque mi hai sentito, poi speriamo bene che questa antenna distrugga tutto il circondario, dai, e quella è una bella antenna comunque. Ok Eugenio, di nuovo a te, per i saluti a Carlo, anche se non so se ti senti. Ciao Carlo, ci sentiamo quando ti piazzi bene l'antenna. Ciao Carlo, ci ascoltiamo, dai, ci riascoltiamo. No, vabbè, adesso è in macchina, tu magari lo senti sempre quando è in macchina, quando è a casa sua, già ti arriva il portatore, già com'è adesso, adesso 9.35 qua, figurati. Allora benissimo, sì ragazzi, io vi saluto e vado a mangiare, un abbraccio a tutti, buona cena per chi non l'ha fatta e ci riascoltiamo domani, ciao. Ciao Valobè, ciao Chihuahua, ci sentiamo alle prossime, pensato sparisco, adesso sono qua fisso. Ciao Valobè, ancora ci sei? Sì, a serve da me Natale ho preso esempio. No, fuori tutte le luminarie in giro per la casa, oh mamma. Ma fuori dalla casa? No, dentro casa, poi fuori, ancora con arrivare fuori, voi. Ah bello, a me, tu mi dirai, sei macco, a me l'aria natalizia è troppo bella. Quest'anno è un mortuorio Sassari, ecco la via principale, via Cavour, ci sono 4 lampadine cagate. Prima l'anno scorso erano tutte belle, anche se c'era il Covid, però almeno le lampade erano belle. Quest'anno ho preso queste striscettine di lampadine e poi in Piazza Italia, vabbè, l'hanno illuminata con quei giochi di luci, idem a Piazza Fiume, però proprio luminarie vere e proprie non ne hanno messo. E a Prato sono fatto una barca lì sulla Torre Aragonese, una barchetta là, illuminata, bella, e poi hanno con il proiettore proiettano delle immagini sulla Torre Aragonese, bello, però illuminarie poche, veramente poche, anzi le luminarie ci sono, fanno schifo. Già lo so, poi tra l'altro quelle luminarie che c'erano, che sono delle strisce di lampadine, né, manco con disegni di cose, prima c'era la dritta, disegnare, eccetera, quelle non le hanno messe, sono rimaste quelle e ci sono tutto l'anno, non è una cagattina. Infatti, vai in altre città, cacchio, anche in paesi, per dire, o Urbia, posto del genere, Alghero, ti fai tenere questo albero di Natale vicino alla torre del Sulis, Alghero, non so se sei andata, è una cosa bellissima. Poi dalle finestre ci sono questi che si mettono a suonare canzoni di Natale, musicisti, diciamo, del conservatorio, ma veramente è bello, cose che si mettono a tua parlata dalle terrazze, li vedi suonare. Ci è andato, non l'anno scorso, 2 anni fa, quando non c'era il Covid, ma era proprio una cosa bellissima, una bella aria natalizia. E andi passi in a Sassari, un mortuio. Sì, lo so, e non sei a Tempio. Io sono andato 2 domeniche fa a Tempio, o 3 domeniche fa. Tutto illuminato, bellissimo. Tempio è veramente bello, centro storico, tutto illuminato, tutte quelle... Bello, bello, bello, a Tempio. Ci sono 4 gatti. Io lo so, e vai a Olbia a tutti, se ti vedi dove c'è la ruota panoramica, tutto bellissimo, tutto c'è la via Corso Umberto, non mi ricordo come si chiama, quella, la via principale del centro di Olbia, e lì è tutto bellissimo. E lo so, non ce la fai a passare a Roberto, mi dispiace, anche se metti la portante. E chi è che si è andato a mettere? Oh, non salta nessuno, avanti che vuole entrare. E mentre parlavi schiacciava, lo passavi sotto la grande. Anche l'altro giorno c'erano un paio di portantisti, non so se per timidezza o qualche cosa, che non entravano, ma facciamo perdere, se vuole entrare entra, se no se si diverte così. E quindi il vespone lo ottieni, e come te lo blocchi oggi? C'hai cioè delle cinghie per tenerlo fermo? No, io il vespone lo uso, scusa un attimo Robert. Fammi che vuole entrare su 10? Sono qua Robert, sono qua. No, ho detto, nel camper, come lo fissi? Non ce lo metti nel gavone? Sì, nel gavone lo metto. Ma c'hai una specie di guida, cioè di rotaia, come lo infili? Ho il portamotto, un carrello scorrevole, capito? Cioè infilo la ruota dell'avanti, poi lo spingo e viaggia su dei binari, entro da solo. Sì, sì, bellissimo, perfetto. E poi come lo blocchi? C'ha le cinghie per non rovesciarsi. Esatto, ha delle cinghie. E fiago non hai fatto, ne entra fiago dentro la cellula? No, assolutamente no. Odore di miscela, no, assolutamente. Nell'altro sì, questo no, perché proprio questo è il gabone, è proprio diviso, non c'è comunicazione tra il gabone e la cellula, capito? Quindi è tutto bello pulmentato, no, meglio così, perché molte volte qualcuno si mette la moto dentro, poi lo scottimento della benzina, i vapori, un fiago dentro. No, questo no. Peraltro sì, questo no. Questo non si sente niente. Considera che la moto ce l'ho proprio sotto la camera da letto, quindi... Ma poi ci può stare anche una moto più grossa, direi. Sì, una moto da strada, un CBR, insomma, quella moto lì ci stanno tranquillamente. Ed adesso se ci vuoi mettere una bicicletta ci riesci a farcela stare? Con la moto? Oltre alla moto ci può stare una bicicletta o qualcosa, monopattino, quelle moto piccoline elettriche? Sì, ci ho messo le biciclette, ci ho messo le più le biciclette. E più tutta la roba estiva, tavoli, serie, insomma. Il lusso, vabbè, tu c'hai una casa viaggiante, non è un campo, qui sono a gas. Grande, no? È enorme. Da quando è che sei camperista tu? Oh, da quando il camper, 15 anni, dai, più o meno. Con cosa hai iniziato tu? Con un camper che sembrava un zingaro. Vabbè, cacchio, tutti hanno avuto l'inizio. Non penso che tutti si compare già nel camper a 50.000 euro di colpo. Iniziano con uno strausato, 25 proprietari, motore diesel di quelli della guerra, piano piano, che cos'era? Ducato o Transit? Quello che ho preso io lì all'inizio era un Ducato, era 1.900 aspirato e faceva 5 al litro. Sì, quindi vecchio vecchio. Mamma mia. Quando sono salito nel Bonorva ci siamo dovuti fermare con mia moglie perché lei ha spaventato, dice non ce la fa salire, non ce la fa, perché ho messo in prima, per salire ho messo in prima, piano piano, e niente, mi sono dovuto fermare. Ma col cambio a cloche o col cambio normale? Il cambio normale aveva. No, quello sul volante, no? No, il cambio normale è normale. Perché c'era quel Ducato, una volta l'ho preso io, quelli che hanno il cambio sul volante, mamma mia, quanto sono scomodi da guidare quelli, poi se non stai attento non lo conosci bene sbagli la marcia. No, no, io era cambio normale, e niente, ma no, per carità. E poi hai preso l'ultimo che c'avevi, cioè prima di questo? No, poi ne ho preso un altro, ne ho avuto 4 io camper. Quindi già sei esperto alla grande, dai. Qualcosina adesso già come esperienza che mi sono fatto. Perché molta gente si piglia lo gambo e convinto che sta guidando la macchina, facendo manovre, sono pazzo. Si rendono conto che il camper è pesante, devi stare attento al vento. Io la cosa che temo è il vento nel camper. Guarda, da piano e non ti si azzivuscia. Già non ti si azzivuscia, però il vento ti arrivano le folate di colpo, non te ne accorgi. Buonasera a tutti. Vabbè, basta andare come con i criteri. Infatti i camperetti non corrono, vanno piano. Sì, però se faccio un articolato con mio. Aspetta, oggi che ha parlato, è entrato Antonio, ripeti quello che ha detto, Io? Aspetta, lascia parlare un attimino a Eugenio, ciao Antonio, mi hai sentito? No, stava dicendo, però lì si è passato tutto sopra Eugenio. Cosa hai detto Eugenio? Ho detto, però adesso faccio un articolato col mio. Sento, mi ha risposto, sono i butti d'aria, non è normale, ma non si capovolgono. Eugenio, non si capovolgono, però io ne ho visto molti in difficoltà di campo. A me un paio di volte mi è capitato un colpo di vento, l'ho tenuto, però cacchio, soprattutto il mio c'ha le ruote piccole, il tuo magari è più stabile, c'hai le ammortizzatori pneumatici, ci avrai un altro tipo di tecnologia, il mio è di bici, gli ho messo ammortizzatori nuovi dietro, però ti posso dire oscillazioni ne ho un bel. Io ho fatto da Dorgali a Sassari sul carratrezzi e mi sono cagato sotto perché si era rotto il cambio e mi ha portato da Dorgali a Sassari sopra un carratrezzi di quelli grandi. Tu dove vai questo cambio? Il cambio non c'aveva le sospensioni pneumatiche autolivellanti per cui lui non sentiva niente. Io ero dentro il camper, mi sono cagato sotto, ho detto questo se ne perde in cammino, come oscillava. Bianco per me, dai, che io vado a mangiare, ci stiamo. Ciao a tu, buona carica, dai. Tu ce l'avrai le sospensioni autolivellanti pneumatiche, così è coso, è oggi. Sì, ho tutto. Poi in strada le pompe diventa un po' più rigido, ma prende tanto vento. Sì, ma è molto largo il tuo, cioè il tuo è enorme, sia di larghezza che di grosso. Che appunto fa un sacco di vela, però è tranquillo, a parte che quando vado a 100-120 tranquillo, sei sempre in camper. E velocità l'hai lanciato? Come? Velocità quanto fa, l'hai mai tirato? Ma sono arrivato, stavo scendendo nel discesone dopo Macomer, quello lungo, ho provato a tirarlo, poi ho bloccato, sono sceso a 160, poi ho mollato, con mia moglie, smettila, cambia piano, e allora ho mollato. Sì, già lo so, ne ha stati attenti, però motore ne ha, cuppia ne ha, come motore potente. Allora, con un motore 2003, 150 cavalli, un altro che avevo, quello che ho versato prima di questo, ne aveva, e quella là era 3000, era 3160 cavalli, quella là era una macchina, schiacciava e schizzava, però i consumi erano assurdi. Ah, consumava più di questo? Questo non consuma niente. Sono proprio sorridato come consuma, quello là era assurdo. Allora, appunto Maragnani, Nicolino, sai dove? A Valedoria, alla Ciaccia, vai. Sì, sì. Ecco, io partivo da casa, con 100, nello scorrimento veloce, prima di Milubagno, no? C'è l'incrocio, sali su allo scorrimento veloce, 100-120, arrivavo a Nicolino, tornavo a casa a riserva, ma a riserva forte, con questa stessa velocità, ne mettevo 20 euro di gasolio, questo qua ne metto 10, e rientro a casa che è appena entrato in riserva. Addirittura, pure è pesante, forse c'è una coppia migliore a basso regime. Ma diciamo che è molto più lento, quello là era un passo senza fondo. Là, come schiacciava e partiva, ma credo camminava, quello là camminava come un dannato, cioè camminava lo stesso, però ci mette un po' di più a prendere giri, un po' più, però è tranquillo, è molto fluido, capito? Quello era molto nervoso come motore, questo è molto fluido, forse per quello, no? Ma c'è marcia, era l'altro che avevi? Sì, c'è marcia, anche questo. Questo col motore c'ha, Fiat, cosa c'ha? Tutti e due Fiat, sia il Laika, con lo scorso che questo qua, tutti e due Fiat. Sì, no, l'altro non me lo ricordo, adesso non me lo ricordavo questo qui, che l'ho visto solo esteticamente, il motore non ci ho fatto caso, però magari è un motore di generazione successiva, questo per cui rende di più. No, io il camper che ho io, quello, tagliamo il vecchio, quello con motore Stransit 2005 aspirato, però lì li ho cambiati, ho fatto una piccola modifichetta, un sistema, già te lo faccio vedere un giorno, è eccezionale, ti fa risparmiare intorno al 10-15% di carburante, senza fare niente, mi sono delle bobine, una bobina che devi fare, e mi fai 10 di media, questo qui. L'altro, il 2008 non ho fatto strada lunga, sono andato a Orizzano a prenderlo, e devo dire, a occhio, insomma, forse più o meno come quello lì, se non di più, però cammina un bel. Cos'è questa modifica? Che bobina, e dove l'hai rimessa? Nella centralina? Non bobina, non parliamo bobine, chiamiamolo un avvolgimento, dove c'è l'immissione del carburante.